Zaccar cervello per fare il tuo. D'accordissimo con mio fratello che ti fa Milan e Luca De Monci. Ma poi c'è tutta. C'è un minifico. Capito. Raga, io sono fuori di testa. Chi vuoi far verde con me? Aspetta, vai a te a casa, va? Con il testo. No! E giochiamo a palla. Neanche per tu. Allora non giochi mai più con me.